aperto e franco, con tutto quello che desidero, e sì. A casa. Sei un po' più basso del solito, come no? Sono a minimo, aspetta un po'. No, 9.15 va benissimo, un radio 5, però normalmente è un po' più forte. In genere è più così, dai. Ehi, a 10 punti più alto, da 9.15 a 9.25, a voglia. No, andava bene anche prima, aveva solo un'osservazione, ossia che magari c'era qualche problema di antenna. Vabbè, perché ti sei abbassato tu invece? Io mi sono abbassato. No, adesso no, forse come ho collegato il lineare, magari che i contatti ancora non erano ben caldi. Qualche falso contatto nel ritorno delle LED, forse. Comunque ti ascolto sempre alla grande, come ho sempre detto, una delle più belle radio qua sulla 27, pulita, chiara, indistorta, non è di quelle da fare male alle orecchie. No, sempre uguale, sempre stessa radio, stesso microfono, stesse regolazioni, da una vita così. Tu c'hai lo Shure del microfono, sbaglio? Sì, sempre lo vecchio Shure. L'apparato però non me lo ricordo, cos'era? Un Superstar, cos'era? È un Samurai questo, l'ho abbassato di potenza per... adesso sono circa meno di 4 watt, 3,8. No, no, stanno alla grande, 9 e 15 e con i picchi li superi pure. Sì, ieri ho dato una radio, io avevo un vecchio Lafayette, che sono Texas Airways, sono precisi identici, quello nero, e ho fatto uno scambio, mi hanno dato un'altra cosa, tanto non lo stavo usando, però l'ho provato e mi ha detto: Claudio, complimenti che stavo uscendo bene, un baracchinetto più grande della 48, dai, più alto e più largo, però con l'MC, l'M93 mi ha detto: sta uscendo veramente bene. Ma io questo... No, mi ha dato sempre ottime soddisfazioni, dai. Certo, non è poco più di un baracchino, dai, c'ha più canale in più, insomma, una buona radio, questo è il Samurai, poi ho diciamo il Chronic, che poi sono tutti uguali, in macchina per esempio ho l'altro, il Super Galaxy, però quello esce con qualche watt in più, infatti dietro c'è il dissipatore. Ma questi di vecchia generazione, per dire, io ho il Pace, quello vecchio, dai, degli anni 70, anni 80, no, diciamo anni 80, 70 no, perché c'aveva già l'indicatore dei canali digitali, mi hanno sempre detto che usciva la grande col canale più 3, mentre c'ho il Multicom, che è proprio gli ultimi, infatti, non so se ne costruiscono ancora le stazioni base della Intec, che è una grandissima radio, completa, tutto, eccetera, però di modulazione è quasi schifo, devi mettergli un microfono proprio suo, con parlombe, perché è molto basso, mentre questi vecchi tutti, anche la 48 e cose in origine, li metti un bel microfono e spingono, poi magari ti compri uno di questi baracchinetti nuovi, dite cose, vabbè, ci sono restrizioni perché tutto il sistema digitale, non hanno più quella componentistica di una volta, lavorano tutto su un integrato, fa tutte le operazioni e magari anche quello li penalizza, ma quelli vecchi con quelle bobinette, quei modulatori eccetera, spingono che è una bomba, magari sarà tutto fuori frequenza e cose, però come qualità, infatti questo Samurai è un apparecchio abbastanza vecchio, immagino, no? Sì, anche questo, anni 80, così mi ricordo, sì, li avevo presi tutti e due assieme, uno io, uno la signora, questo mi sembra c'ha una banda in più, questo c'ha 6 bande, invece l'altro ne ha 5, c'ha qualche piccola variazione, questo c'ha anche il CW, quello non ce l'ha, qui il beep non lo puoi togliere, là lo puoi togliere, vabbè dai, un po'... Però c'è tutti e due, sono esteticamente sono identici, frequenzimetro, canali e cose varie, dai. Molto a varie di Smith, tutti e due. Ah, c'hai anche FM e banda laterale? Sì, questo è tutto. No, bello. Non sapevo avesse frequenzimetro nel Samurai. Sì, uguale, sono uguali alla Super Galaxy. Stessa, dall'interno sembrano proprio identici, vanno gli altri, sono precisi, dai. Infatti i finali sono diversi, quello là monta, sembra doppio finale, e questo ne monta uno. Quanti battenti là quella radio di massima? Guarda, mi sembra che prima era sui 10 watt, io adesso l'ho portato a meno di 5, dai. Anche se perdo qualcosa con l'Alfa Lima, però almeno la radio non si rovina. Ma tanto non serve a niente, se ne hai 5 o ne hai 8, un po' di gente, l'ho portata a 8, e quindi cosa già, ma nulla. No, pilotando diciamo il 507 con 10 watt tendeva a saturare leggermente, anche se magari si sparava, non so, 300 watt, ma preferisco uscire con 150 magari, però uscire bene. E certo, la gente non ha capito, se tu stai strapazzando l'amplificatore, in questo caso il finale, cioè quello è fatto per uso, è come l'amplificatore di casa, che tu metti le casse ed è dichiarato 100 watt massimi, e tu cacchio lo stai tirando il collo a 100 watt, meglio tenerlo a 50 watt, diminuisce la distorsione e poi metti l'amplificatore, perché l'amplificatore ti amplifica tutto quello che c'è di sporco, di distorsione, se lo fa sedere, c'hai 10 watt e un watt di armonica, di cosa, te la porta di 10 dB più in alto, te l'amplifica di 10 volte quell'armonica che c'ha, per cui stai rovinando tutto, tutte le spurie, tutto quello che c'è te lo sta amplificando, meglio tenerti più basso e uscire pulito, non saturi e non distruggi. Sì, e poi non vai a sovraccaricare, diciamo, l'ingresso dall'apparecchio, come sempre tenerti sotto quello che lui ti dice massimo 10 watt, tu ti tiri 5, 6, massimo 7, guarda, non andare oltre, perché intanto vai a rovinarti la radio. Invece molti vogliono strizzarlo al massimo per raggiungere, invece che 9,25, 9,26 magari. Ma non c'ha banuda, ma poi tra l'altro se tu vuoi fare una proporzione devi fare, per dire, c'hai 5 watt e ne metti 50 all'unulti, ma se tu fai 5 e ne metti 10, no? Non te ne accorgi neanche, devi fare per avere un guadagno di coso, di rendimento, cioè una differenza, devi moltiplicare la potenza, come per dire, ne ho 100 e ne metto 150, non c'ha banuda, se da 100 li porti a 400, io te lo dico perché le prove le facevamo su altri tipi di cose noi, quando c'era una radio privata, per vedere le differenze, se ne hai 100 non devi mettere 400, se ne è da 400 avrai la differenza, devi andare a 1000, così da 1000 a 2005, questi sono i rapporti per avere delle rese, differenze evidenti. Sì, sì, scusa. Infatti quello più potente lo uso in macchina, che in macchina magari c'è bisogno di qualcosa di più, uscire con 5 e uscire con 20 magari mi cambia qualcosa. Là. Sì, sì, ma devi avere un pochettino di spinta in più, però sempre senza sporcare la cosa, perché se tu stai già andando in regime di saturazione, i 5 watt sono già sporchi, carichi di sporcizia, diciamo, di spurie e di armoniche, tutto quello che metti dietro dopo te lo amplifica ancora di più, per cui è meglio tenerti a 3 watt puliti, indistorti, così l'amplificazione non te lo vettoriava troppo il coso, come si chiama, quello che c'è successivamente, soprattutto col transistor, con le valvole è diverso, hanno diciamo, un sistema di rendimento migliore, infatti in alta frequenza si usano, almeno si usavano sino a qualche anno fa, dopo certe potenze solo valvole, tu se vai in broadcasting quando usano migliaia e migliaia di watt, mica usano il transistor, dopo i 500, 1000 watt sono tutti a valvole. Lo so, anche ho avuto sempre una passione delle valvole, infatti qua avevo preso un vecchio, questo Gemetronics GTX 500 che lo stavano dando insieme a una scheda polvere, forse te l'avevo già detto, e sono riuscito a prenderglielo solo questo, dai. L'ho sistemato, vedo che va bene, non lo uso quasi mai, però lo accendo sempre, faccio scaldare un po' le valvole, poi i condensatori per caricarsi un po', e poche volte l'ho usato, dai. Ma poi quando lo devi usare? Usalo per dire quanto è l'ingresso massimo, 10 watt, tu lo tieni un'ora a 1 watt, lo lasci andare a scaldare tranquillo, poi un'altra ora a 2, salire progressivamente, in modo che si stabilizzino termicamente le valvole, se no se tu gli dai di colpo tutta la potenza d'ingresso, tu le vedi come diventano le valvole, si oscuriscono prima di tutto e poi iniziano a perdere di coso, di efficacia, di rendimento. Sì, sì, ma io parlavo non di amplificatore, ma di apparato proprio ricetrasmettente, questo è un baracchino, un valvolare, un vecchio, non so di che anno sia, penso sia anni 60-70, dalla Gemetronics. Quindi questo non ha media potenza, una volta lo accendi, lo fai scaldare un po', quando vedi che è caldo, moduli, dai. E quanti watt c'ha questo? No, poco, lo stesso, misurato, penso che sia meno di 5 watt, anche questo sui 4,5. No, pensavo fosse una cosa un po' più evoluta, perché quelli li facevano, quelli vecchi, tipo lì insomma, il campo Unida, eccetera, cioè avevano uno stadio, diciamo, pilota, poi c'era l'amplificatore, il ricevitore separato, eccetera, c'era la linea completa, parliamo di radio di certi, cos'è? Un baracchino, quindi non è un HF questo. No, è un baracchino, un 40 canali, è semplicissimo, c'è uno smitter, già i canali si vedono con i numeri rossi in digitale, poi la manopola centrale, le due TX RX al centro, poi c'è il PA, CB, sopra c'ha standby, power off, l'altra che non si legge sicuramente, quello dovrebbe essere il clarifier, perché se non si legge più sicuramente è consumato. Poi c'è un tasto per lo smitter, sia in trasmissione che in ricezione, c'ha due scatti diversi. Lo smitter c'è in ricezione, non ho capito, cioè commuti per dire, per vedere le stazionali e la potenza, cosa fa? No, in uno ti dà la potenza, nell'altro ti dà il segnale. E devi commutarlo tu? Sì, sì, c'ha due posizioni, S, l'altra non si legge più, allora, poi c'è chi trasmette sopra, e basta, non c'è altro. E funziona a 220? Sì, sì, 220, c'ha, pesante come un treno. E io ne ho di questi vecchi così, ne ho due, c'ho il Pace che me lo tengo, non lo vendo, che funziona a 220, e più c'ho il Ruiz che lo voglio dar via, ma non a vendere, ma è qualcuno che interessa a qualche scambio di cose che possono interessare a me vendere non è che, veramente ho venduto, ma proprio raro le cose, ma interessa a qualcuno, quello lì è americano originale, quello lì funziona a 110 volt, infatti c'ho il trasformatore esterno con le attacchi americani, perché le attacchi americani, non so se le viti, non sono tondi, sono piatti di spinotti. Sono quelli a lamelle, dai. Infatti quando vanno in giro ho sempre l'adattatore, perché anche se adesso provinciale per le europee, ma prima non le provavi proprio, quindi ti dovevi premunire di adattatori. Sì, adesso le vendono alla Lidl con tutti gli attacchi, ma solo in Francia riesci ad andare, se secondo dove te ne vai, se vai negli Stati Uniti in posti del genere non riesci a farlo funzionare, vabbè, per forza se devi fare la barba, il rasoio, io in Francia ci riuscivo perché riuscivo a entrare, però come l'attacco tedesco, tu quello scucco, sciucco come cacchio si chiama, quello lì l'hai preso da normale e non ce le puoi fare entrare. Sì, sì, solo il folletto utilizza, sembra una presa asciugo, soltanto che è leggermente più sottile, quindi entra anche nella presa normale. Sì, sì, sì, non le hanno mai standardizzate, è una cosa nel mondo, infatti hanno fatto tante standardizzazioni di tante cose, per dire, i cellulari li stanno standardizzando, ti ricordi c'era l'attacco iPhone, l'attacco quello, adesso tutti Samsung, Huawei, Xiaomi, sono tutti standardizzati i coso, vabbè forse la Apple è l'unica che è rimasta, ma tutti gli altri sono standardizzati i caricatori, per dire, con uno di uno attacchi tu, mentre le prese, per questioni di mercato, perché gli Stati Uniti sono molto gelosi di queste cose, come gli inglesi, hanno lasciato le prese loro. Sì, sì, ormai i telefoni sono tutti quelli C, tipo C, può cambiare qualcosa, per tipo, come si dice, i watt, no? Ce ne sono da 15, da 30, addirittura 35 watt, ce ne sono grossi adesso, quelli carica rapido. Sì, ma adesso già le toglieranno via tutti questi caricatori, nuova generazione, infatti non hanno neanche bisogno di cavetto, li appoggi e si fanno la ricarica a questa wireless, diciamo, un sistema del genere, molto più efficace, così non sai a tenerti vicino a tutte queste cavette e controcavette, che poi si rovinano sempre i cavetti dove c'è la testata all'innesto, di lì muovi oggi e muovi domani, si sbuccia anche al filo e alla fine poi si crea problemi. Sì, sì, no, io infatti con mio figlio abbiamo messo praticamente inserito nella presa tipo C un adattatore magnetico, infatti quando devi attaccare il caricatore, tac, lo attacchi del magnetico, addirittura è tutto snodato, non ha bisogno di, non si imbroglia da nessuna parte, il cavo è quello che sembra in tessuto, telato. E ti rimane questo cerchietto, diciamo, attaccato al telefono, che neanche si vede, ed è magnetico. È un sistema a induzione, mi sembra che si chiami questo sistema qua, è il più efficace di tutti, eccetera. Adesso stanno facendo, vogliono fare anche la linea elettrica, la stanno provando in Australia a lunghi tratti, però visto che lì il territorio è enorme, senza fili, cioè la linea elettrica wireless, portare la corrente elettrica, lo sai quanti soldi risparmierebbero? Lo so, chissà poi se può far danno alle persone questa questione qua, non lo so. Sì, dunque anche questo telefono, quello che ho io, è a induzione, addirittura è anche induzione inversa, posso caricare schiacciando, diciamo, l'interno, modificare, mandarlo in uscita questa tensione, posso caricare un altro telefono che deve essere compatibile con questo, dai, con la ricarica wireless. Questo è già il secondo che io, addirittura quello che ho avuto 7-8 anni fa già era induzione, la carica wireless, sempre della Motorola. Sì, sì, sono sempre sistemi evoluti, diciamo, molto molto migliori, piano piano quasi tutti i cellulari, almeno non dico quelli più economici, ma quelli di medio rango ce li hanno quasi tutti, questo sistema qua, risparmi anche un sacco di soldi, dico, le case costruttrici, risparmierebbero rame, tutti. tutti questi, perché caricato anche se costa 3 lire, però su 1 milione di pizzi sono soldi. Sì, mi sembra leggermente più lenta la carica rispetto al cavetto, quella wireless, sembrerebbe, poi magari una sensazione. Sì, sicuramente ci avranno dei limiti di coso, di quantità di carica, vabbè, ma non ti la fusione, da tanto lo lasci la notte, non si lascia mai il telefonino completamente a zero, raramente lo lasci a zero. Sì, sì, non deve scendere mai sotto il 10%, dicono, e poi non lasciarlo neanche attaccato dopo che carica, anche se hanno la protezione di... però sempre meglio, se possibile, staccarlo, dai, una volta che arriva a 100. No, vabbè, già c'hanno la protezione, questi nuovi già c'hanno il coso. Io per mandolonia lo lascio tutta la notte attaccato, infatti il telefonino mio, ma posso dire, nell'arco dell'anno se lo spengo 2 o 3 volte è troppo. No, anch'io raramente, a volte lo riavvio, non è quando installo qualcosa, lo riavvio, quindi di conseguenza è come che l'abbia spento. Se no non conviene neanche spegnerlo, anche mio figlio mi ha sempre consigliato di non spegnerlo, lui lo lascia sempre acceso. Scusa, mi ero allontanato un attimino, ho risposto a mia figlia. Ma non è stato nessun altro stamattina? Ma non credo, ma io non è che abbia acceso la moto. Sono andato qua a cambiare un po' l'aria, ho acceso un po' la... Anche se c'è molta umidità fuori, mi sa che ho peggiorato la situazione. C'è molta umidità. E cacchio, ieri, l'umidità di ieri, non l'hai visto? Sembra che stesse piovendo. Beh, era impressionante, io non l'avevo mai visto, cioè all'1:30, piena giornata, diciamo, piena temperatura, piena calda, diciamo, che ha scaldato già il sole. Tutto nebbia, sono salito ieri alla Conad, ho fatto la salita delle piscine di lì, la Conad di Luna e Sole, non si vedeva la fine della strada, vedevi massimo 50 metri di visibilità ci avessi. No, infatti gli amici miei sono venuti da Milano, erano convinti che li avessero presi per il culo, quindi ci hanno fatto due giri, aereo, ci hanno di nuovo... Abbiamo aspirato il telefono e ci hanno di nuovo riportato a Milano. E loro già sono abituati. Io quando sono andato a Bergamo, non so se te l'ho raccontato, qualche anno fa all'aeroporto, io non ho fatto giovanza affatto a partire l'aereo, la scaletta, io il primo gradino della scaletta non vedevo l'ultimo, che saranno 5 metri di altezza, 4,50 di altezza più o meno, non riuscivo a vedere 5 metri di distanza. Mai utilizzeranno altri strumenti, dai. Perché Alanghero mi ha detto, Carlo, l'altro giorno, giovedì sera mi sembra, me l'ha detto, sì, giovedì ha detto che hanno chiuso l'aeroporto, se non dirava la nebbia, perché forse non hanno sistemi, la torre di controllo di navigazione a coso, come si chiama, automatico. Qua non saremo a livelli di Malpensa sicuramente, io devo di Fiumicino. E di lì la nebbia è normale, cacchio, è allucinante. Il pezzettino della pianura padana, poi sono passato in treno, ho fatto da Bergamo, sono andato a Cremona, sono 100 km, che non vedevi niente, eri in mezzo a niente. Tipo quando vedevi quei paesi russi dalla steppa, infatti ho detto, ma dove sono andato a finire? Tutto buio, cioè di giorno, tutto cupo, come quando stai in mezzo la sera, che stai iniziando già a scendere il sole, che quasi non si vede più. Tutto cugera, tutto, tu camminavi in mezzo alla nebbia, in treno, un'oretta di treno neanche, dai, 3/4 d'ora, era in mezzo a niente, alle nuvole. Poi non è simpatico atterrare senza vedere cosa c'è sotto, per me io sono un po' apprensivo, soffro un po' l'atterraggio, più che non tanto il decollo, ma un po' l'atterraggio, mi mette un po' di ansia, dai. No, non è vero, sto parlando in treno, perché poi ho preso l'aeroporto, ero a Bergamo, sono atterrato e poi in casa ho preso un bombone dei messaggi. L'aeroporto era ora al serio a Bergamo, ma da lì dovevo prendere il treno per andare a Cremona. Ma era una cosa, poi questo, cioè una sensazione, cioè noi in Sardegna vedi tutto bello, luminoso, le campagne, il verde, lì vedevi tutto pieno di questa nebbiolina che sembrava stesse piovendo ed era questa brina. Infatti la mattina dopo che mi sono alzato ho detto, ma qua c'è proprio. No, questa è la brina. Vedevi queste micro goccioline che ti scendevano addosso. Sì, ti dico, ieri sembrava, proprio la sentivi in faccia, quest'acqua nebulizzata. Sembrava di fare un aerosol di umidità. Infatti me ne accorgo, come ho aperto, adesso mi è salita l'umidità dentro casa. Mi toccherà attaccare le umidificatori adesso. No, grazie a Dio in casa mia non è umidità, ma secondo dove vai ti fai a beffa. Di lì infatti dico che roba di reumatismi la gente che si prende. E poi le nutrie, che io non le avevo mai viste, tu le hai mai viste le nutrie? E poi dicono che ci sono, io le ho viste, no, non qua, però ce l'abbiamo anche in Sardegna. Sì, qualcuno è stata vista, l'hanno catturata, sembravano tupi, l'hanno presa per tupi, però no, ma di lì io, cavolo, cosa sono queste cose? Siccome attraversavi le paludi dove ci sono le resaie, le cose di lì, e c'erano dei pezzi asciutti, perché vedevo queste bestie? Ho detto, ma non sono gatti, e ho detto, no, queste sono nutre, ma enormi, cose, tupi, dei sarroni enormi. Sì, io l'ho vista in Kenya, la prima volta, è una trentina anni fa. Ma se ne mangiano i muri, non lo so. Ma non lo so. Era una bella combriccola. Un bel gruppo erano. Avevo chiesto anch'io cosa fossero, perché anche a me sembrano soltanto dei topi di fogne enormi, invece no, sono nutrie. No, ma lì in coso, in Lombardia, tutta quella pianura padana di Piemonte, lì se le mangiano tranquillamente, diciamo, magari non se le mangiano tutti, come loro si mangiano le rane, cose che noi solo a vederle, loro fanno schifo i lumaconi, mentre noi ce le mangiamo, le lumache, e lì non le mangiano, però le nutrie, lì è come tipo coniglio, vabbè io carne già non ne mangio, quasi niente, però mangiarne un sarrone gigante è peggio che mai. Perché hanno dei bei cinerini, dei bei dentoni. No, le rane le ho assaggiate, me le hanno fatte mangiare una volta, anche se ero consapevole, esatto. Hanno cercato di nasconderlo, però insomma, assaggiamo, ed ti dico che erano anche buone, dai. Ma come le hai mangiate? Così fritte? Sì, erano fritte. Allora io sono andato, non mi ricordo dove, in Italia però non fuori, e tutti sono andati cosa a fare i panini eccetera eccetera, e che non mi date in un panino e vedo questa cosa, che questa gambetta, allora, cos'è? No, rane, vai dove stai andando, vai mangia a dirlo, glielo restituito. No, io le ho mangiate in Italia, ero lì a Gorizia. Ma che a parte la schifetta, masticare una cosa, babba, guarda, solo a pensarci, te lo lascia perdere, fammi un panino normale, amico, giusto, ma lo posso mangiare, ma non mi fare panini strani così. Ah, oh, che buona, ma ho detto, vai dove stai andando. Vabbè, dai. Io qualcosa l'assaggio nei limiti sempre, ho fatto viaggi anche fuori, certo non mi mangio i topi, quelli che vendono, che li avrei anche visti tu in qualche documentario, che li acchiappano per la coda, che sembra un lecca, loro belli croccanti ci rimangono. Guarda, io ho un amico che mi hanno presentato, diciamo ci siamo conosciuti, siamo stati anche qualche volta insieme, amici comuni. Questo qua lavorava alla RAI, direttore della RAI 3, i servizi documentari, non faccio il nome, ma una persona molto molto conosciuta nell'ambiente dei documentari, girato tutto il mondo. Lui mi ha detto, io ho mangiato tutto quello che esiste sulla terra, anche cose che magari non si possono mangiare, però le ho assaggiate. Questo dice, è stato 3 mesi, ha fatto un documentario in Groenlandia, è stato 3 mesi, e lì mangiano tutta la roba, carne di orso, carne di foca, dice piccoli animaletti di gozzo, dice io ho mangiato tutto, qualunque cosa che esiste sulla terra, dal serpente agli uccelli, a mammiferi, qualunque carne di balena, carne di foca, dice ho mangiato tutto, e posso dire nella mia vita io ho assaggiato tutto, poi c'è qualcosa che magari che non mi piace, però dice ho mangiato tutto. Anch'io sono un po' curioso, mi piace assaggiare le cose, tipo ma alghe strane, però più di tanto non mi fido, dai, anch'io. Gli insetti mangiati le cavallette? No, negativo, no. Allora, i miei nipoti se le hanno comprato le patatine, erano delle cavallette piccoline alla paprika, e se le hanno mangiate di gusto, gli ho detto, ma non ti allontano, bussa via. Ah, oh, guarda che sono buone, vai, le ho detto. Belle croccantine. Guarda che sono buone, Oh, c'è da dire che il futuro è quello, quando la popolazione sarà oltre un certo limite, non basteranno più gli alimenti normali dalla terra, per cui dovrai abituarti a mangiare queste cose liofilizzate, come fanno gli astronauti, mica si mangiano il piatto di pasta asciutta, no? Ti li danno una galletta che ha 3500 calorie, e quello è un piatto completo, come la vuoi, al gusto di mandarino e paprika, la vuoi al gusto di pasta al forno, al gusto di pizza, viverà così la popolazione, assolutamente calibrati le dosi di tutte le percentuali di tutte le proteine, delle cose, però non è la stessa cosa di masticare un bel piatto di pasta asciutta o di pasta al forno. Sono quelle larve che trovi nei tronchi enormi, no? Ma io non se le mangiano, quelle tribù sperdute, in Amazzonia, mamma mia. Non ho visto un video di questa bambina, ci avrà avuto 2 anni, 1 anno e mezzo, era proprio piccolina nel seggiolone, e aveva portato questo piattino con queste specie di larve giganti, ma grosse, quanto un dito, ed è passato il fratellino che ci avrà avuto 5-6 anni, vabbè fai di più, 7 anni, e ne ha preso una. Tu devi vedere il pianto di disperazione di questa bambina. Allora il fratello gliel'ha dovuto restituire, lei ce l'aveva la bocca piena, ne aveva piena di questo cacchio di larve da fare schifo, e masticandola, mamma mia, allora glielo faceva apposta, si avvicinava, lei si metteva a piangere, i genitori tutti ridendo, lei c'aveva un piatto di larve, ma larve giganti. Mi sono visto anch'io, altro che carne di cavallo, proteine a 1000. Mamma mia, lasciamo perdere, cacchio, è schifo, cacchio. Io forse perché di natura sono molto attento, schizzinoso, certe cose non manco a vederle, certe cose infatti che la gente ne va scema, io ne manco a vederle, cose per dire, piatti tipici sardi, sassaresi, io lascio perdere, la cordula, tutte quelle cavolfiori, mamma mia, neanche a vederle, cipolle bollite, pecora bollita, neanche a vederle, sono delle cose che proprio, mamma mia. A me piacciono invece, sia la cordula che la pecora in capo bollita, vedete, poche cose che non mangio sono il fegato un po' mi allappa un po' il palato, mi dà fastidio a mangiarlo il fegato. Ma io c'ho amici si mangiano l'occhio, cacchio, non so se tu l'hai mangiato, ma lì c'è quando lo mastichi, senti, ciac, ciac, mamma mia, che schifo. Vabbè, mi siamo in mezzo un po' incrociato con Michael Maiale, mangia tutto proprio. Sì, nelle massima mangiano tutto. Poi adesso io ho mia figlia, la piccola, quella lì è già almeno 4 anni che è diventata vegetariana, quella non ne mangia di carne, pesce, niente. E se c'è qualcosa, per dire, negli ingredienti che c'è qualche particella di roba animale, ne manca a vederli, per dire, ci hanno regalato dei dolci. E nei dolci dice c'è lo strutto, non so cosa cavolo c'era. No, questo non li voglio perché non siamo assassini, sì, non ne mangio cadavere, però già ti mangia queste cose. Regalo tutto è grasso animale. Io una cognata che quasi del tutto vegetariana, quasi Ma lì io sto cercando adesso di rifarla entrare a mangiare, infatti non gli ho fatto, già, lei rimane così, detto, ma cos'è che ti manca più di tutti? Lei gli piaceva un bel salmone, le cose ce le mangiava a bizzeffe, e quello mi manca il salmone e poi non so cosa gli manca, gli ho fatto, piano piano, quando comincia la fame, già vedrai anche tu ritornare a mangiare. Ieri un bel pezzo di salmone abbiamo fatto. No, io quando il salmone la faccio spaccio, la biglio non la faccio io, piano mio, non sono cuoco per niente, non sono Claudio che sa cucinare. Ieri mi sono messo, ho fatto a mia figlia, infatti ho detto fai le fotografie, ho fatto i tortellini e cucinati e messi nell'acqua a bollire e basta, mi ha detto metti il sale, mi stavo dimenticando il sale come me l'ha detto. E poi abbiamo fatto tipo antipastini, cose così, ma tutta roba già pronta, ho tagliato formaggio, delle acciughine, olive, ripiene, ma era tutta roba pronta. E poi c'avevo un pezzo di pasta al forno di mia sorella che me l'ha data e mi sono scaldato quella lì. E Tommy, questa è la mia cena di Capodanno. Adesso mi stavo preparando tra poco. Allora il pranzo si va a mangiare, a ricaricare l'ultima dose delle vacanze natalizie. Anche io non è che sia un cuoco, però diciamo che non muoio di fame, qualcosa la so cucinare. Guarda, io stavo parlando con Eugenio, ho detto guarda oggi io la cosa che so fare bene sono le uova al tegamino, devo stare attento a non romperle quando le mette la frittata. Eugenio, no, io so come le vedete, io so fare il panino con la Nutella. Addirittura, eppure da buon camperista dovrebbe arrangiarsi. Io compro roba già pronta, un bel di roba, io vado in questi self-service, cose così, mi servo, dammi una porzione di quello, dammi quello lì, no? Pizzerie all'altro, quando sei in campo organizzi sempre così, ma mettermi a cucinare, mica quando andavo, ci andava in Corsica, a me si faceva qualcosa di cucina, ma normalmente sempre roba già pronta, cioè roba naturalmente non roba troppo conservata, perché non fa bene. Perché noi d'estate quando ceniamo al ghetto, difficilmente cuciniamo a casa, che siamo sempre fuori. A volte al pranzo mi prendo 4-5 focaccine lì dal Milese, pranziamo direttamente al mare e poi la sera una dolce e via, e di nuovo con gli amici in pizzeria, fuori qualcosa al volta la mangi, dai. Sì, certo, Granizzi, adesso le fanno uguali, e ti posso dire buone, e cioè, certi pezzi forse anche meglio. Alla Conad però le fanno solo di sabato, la Conad è qua a Luna e Sole, ma tu devi assaggiarle che buone, quelle del Milese sono spettacolari, ma buone, buone. Proprio poi ti caricano bene, ti danno una bella dose di energia quelle cose. E dico, ma tu c'hai il camper, o mi ricordo male, Fra? No, negativo camper. Se tu le vuoi uguali al Milese devi andare lì a Fertile dove c'è il bivio, lì le fanno uguali, proprio precise, perché non so se sono parenti o ho lavorato a quel punto lì, quindi la ricetta è la stessa. Sì, no, l'Inglese non dico milionario, ma già se lo fa qualche spicciolo, la condizione è una bella stagione, devi fare la fila. Poi se sei in estate, guai, molte volte ci rinunci, vai da un'altra parte perché dice non è possibile. No, secondo me quelli saranno davvero veramente milionari, perché lavora, non lo so, un attimo, neanche io come lavori. Infatti noi siamo che l'inferno chiude, se ne vanno in Brasile, roba lui, a svernare un po'. Aspetta, c'è qualcuno che vuole entrare, avanti che vuole entrare, è entrato un segnale quasi 9:30, ti ha schiacciato qua, però non vuole entrare, dai, forse ha sbagliato canale, dai. Ok, quindi come quelli della Faene, all'inizio, vabbè, adesso Faene la fanno da tutte le parti, lavoravano solo 3 mesi all'anno i vecchi di Sassari e poi tancavano e con quei soldi se ne andavano a divertirsi. Mac, avanti mi Antonio. Buonasera, buongiorno e buona a tutti, buon anno. Sei un po' raffreddato anche tu, buon anno Anto, anche a te, avanti, se va bene. Ebbene, ciao Anto, augurone, ebbene, bombardamenti come sono andati ieri Anto? Alla grande. Niente, demolito, qualche casa diroccata, come si dice, demolizione con esplosivi. No, tranquillo. Ho visto un video, cacchio, mi ha fatto troppo ridere, Napoli, hanno messo interrati in uno di quei tipi razzi che li attacchi e partono, c'è uscito nel palazzo di fronte, sarà stato a 100 metri il palazzo ed è entrato dentro casa, tu dovevi vedere, è diventata tutto l'appartamento rosso, tipo quando tirano le bombe di quelle teleguidate, un'esplosione allucinante, cosa che verrà detto, e poi sentivi le voci, la gente strillando, e cacchio, cosa hanno combinato? Di raddo, di vecchiani. Ieri mi hanno dato delle dirette dei miei amici che sono proprio lì a Napoli, altro che divieto di butti, sembrava una guerra. Anche qua però già si è sentito un bel casino, no? Sì, dai, ma non come Napoli è particolare. No, Napoli è uno, comunque ieri notte io li ho sentiti belli forti, dai, non è che ci hanno durati molto, però li ho sentiti, e da tutte le parti d'Italia, anche ero poco fa a Genova, parlando in diretta con un amico, e mi ha detto la stessa cosa, dice che cacchio divieto di butti, e meno male c'è il divieto, sennò guai. Ma fregatene che non ci passano di notte. E cosa ci vogliono togliere, anche queste piccole soddisfazioni? Infatti devi andarsi dove vogliono loro, dai, non diciamo altro, dai, finiamola qua. Guarda, a Napoli sono famosi, che poi di lì a chi ce l'ha più grosso, a chi fa più rumore, cioè ti pigliano il pallone di Maradona, non so quanti chili di polvere pirica c'era, che è peggio di una dinamite, dice, te ne ha buttato un tarratto, l'aveva fatta la prova, te ne è sceso un tarratto in terra. La bomba di Maradona, il pallone di Maradona, è grande quanto un pallone davvero, e infatti ogni tanto lì già qualcuno già perde qualche braccio, qualche arto. Non ho sentito le telegiornali se qualcuno si è frantumato, ma ogni anno ce n'è qualcuno. Ogni anno il bollettino è amaro. Ma stavo dicendo, è lì a Fucadoane. Cosa hai detto? Se lì hanno fatto casino nelle zone tue. Ti ho detto un bel Antonio, ho sentito un bel ieri, ma anche fuochi d'artificio, poi la settimana scorsa non so cosa sia successo, c'erano fuochi d'artificio verso le 10:30 di notte, ma sono durati 5 minuti, normalmente li sento quelli che fanno alla Maison con la zona lì, ma questi sembravano fianco a casa, infatti, ma chi li ha fatti? Ma grossi, sono durati almeno 5 minuti. Li fanno per i compleanni, ora, si fanno per i compleanni, le fanno robe. C'era Claudio De Muro, infatti voglio vedere se è sopravvissuto, dice c'è questo vicino suo che tra l'altro dice non ha neanche portato d'arme, nel mezzo macco si mette a sparare in mezzo strada con il coso, col fucile e a pallettoni. Dice ogni tanto infatti ha fatto spostare le macchine, gli ha detto al padre, per questo è mezzo scemo, e spara da tutte le parti in aria, ha detto rimanete mai in casa, o sea, tu macco, per sbaglio arrivi qualche tiro dentro casa. Ma sta punendo una bomba, dai. E poi a pallettone, cioè, che è anche pericoloso. Mettiamo o a salve o a pallini piccoli, dai. E poi quelli cadono poi. Certo, ma io ti dico, io le persone posso capire, mettiti in un posto che non dai fatti da nessuno, a quelli che sparano col fucile dentro città, io quelli li avrei arrestati, ma messi dentro proprio, no direi condannati in coso, con la condizione, messi dentro, cacchio, perché tu rischi di ammazzare, hai visto? A Napoli ogni tanto ne ammazzano qualche bambino, sparano dall'altra parte, c'è un terrazzino aperto, senza nessun caso, quando avevano ammazzato quel bambino e quell'altra bambina che poi si è salvata, ferita la testa, non so quanti anni è rimasta in coma. Molti addirittura sparando interrompono i capi dell'energia elettrica, ne fanno danni lui. Però vai nel Nuorese, quei paesi lì, Orottelli, Uniferi, tutta quella roba lì, chissà cosa combinano, io ho visto tutti i cartelli di lì, ma no, sparati proiettili, chissà cacca pompa, non lo so, disintegrati, sono andato l'estate scorsa, mi sono spaventato, te con cosa hanno sparato? Hanno sparato a mezzo metro, dico, per fare questi strampi così grossi. A volte, non so se è vero, dai, prendi la cartuccia, anche una cartuccia a pallini, non devi saperlo fare, no, la incidi con il coltello, con la patatella, la incidi leggermente sopra la borra, dove finisce il contenitore, e poi tu la spari, praticamente va fuori una palla, forse si fonde anche, e ti fa il buco come una cartuccia a palla. Sto dicendo, io sono rimasto scioccato, che cacchio di spara, cosa sparano qua, quei fucili con le pallottole perforate, erano spaventose, non ce n'era uno intero di quei cartelli lì. Anche nella strada di Itili c'è una stradetta di lì, infatti ho detto, cacchio, anche qua li stanno portando i cacciatori a sparare, di lì non ce n'è uno buono di cartello. A Orgosolo avevano speso 200.000 euro per fare tutte le telecamere di sorveglianza e le luci, non so cosa cavolo avevano messo nel paese, le hanno distrutte ed è stato il capolanno scorso, infatti il sindaco ha detto basta, non le mettiamo più, peso per loro, ogni anno distruggono tutti i lampioni e le telecamere. Da noi lungolinea, lungo la ferrovia, ci distruggono tutti i segnali, tutti sparati, quindi semafori, avvisi vari, tabelle, la fermata di Arcone è una fermata intermedia tra Omedo e Sassari, non si legge più, l'hanno tutta impallinata, sparata, distrutta. Forse non abbiamo capito che in quelle zone gli dà fastidio questa storia qua, li sparano per quello. Ma lì fanno saltare anche i punti ripetitori, telefonia, cose del genere, vogliono rimanere molte persone isolate, le buttano a terra, non puoi pensare a un punto ripetitore, appena lo vedono, se lo buttano in terra, non sai quanti ne hanno danneggiato, alla fine li hanno messi sorvegliati, videosorvegliati, con il coso, con la pulizia e un po', appena sono lontano la pulizia, tu lo fanno saltare con la dinamite. Se no te lo tirano. Mi ricordo ancora un post su Facebook, da noi in Sardegna i cartelli stradali sono così, sono tutti distrutti. Sì, sì, infatti, com'è? Alfabeto Braille, quello per i ciechi. Com'è? Braille. No, ma io quando sono andato a Unifili, perché cacchio, ma dentro città, non dire l'ingresso del paese, non c'era un cartello o rottelli, Unifili erano tutti disintegrati, ma stampi tipo che ci passavano dentro. Ma boiata, dove va la zona lì? Come li vedono? Questo mi sta disturbando, mi sta a me. L'ho fatto saltare in aria, là. Hanno un senso di rigetto per i limiti, per questi divieti. Oh, e che sono ucciso. Da piccolini, mi ricordo, i primi regali, subito fucili, pistole. Sono così. Oh, ti danno il cuore, io ho tantissimi amici da quelle zone lì, ti danno il cuore, però sei sgarri, mamma mia, cioè hanno un'ospitalità unica, nessuno, io ho visto delle cose nel Nuorese, dico cacchio, se ci siamo appena conosciuti ti invitano a casa, ti mandano i regali, le cose, ho detto cacchio, ho avuto una persona, avevamo conosciuto in ospedale di lì a Nuoro, questa qua era di Oliena, cioè, mi raccomando, poi è venuta la figlia, me l'ha presentata, il Geno, ti sto dicendo, sembravamo amici di lunga data, ci eravamo conosciuti di lì in ospedale. Io parlavo con qualche matrimonio anche lì a Lorese, a parte che c'era tutto il paese, i bar del paese, di questo paese, erano tutti pagati dal padre dello sposo, praticamente, non dallo sposo, dal padre. Facciavi il bar, tu entravi, era offerto dallo sposo. Ma lì quando fanno la bussa, cioè i regali non è che ne fanno, lì ti fanno la bussa, ma ci prendono milioni e milioni, diciamo, perché lì le parliamo decine e decine di migliaia di euro, ma c'è gente che ci ha fatto delle cifre spaventose, c'è da dire che deve invitare tutto il paese, è un matrimonio di lì, non è uno scherzo, quando inviti 4, 500, 600 persone. Sì, sì, così, là c'era tutto il paese, ma è tranquillo. Gli unici che non erano ospiti erano i camerieri e i cuochi. No, no, anche loro erano ospiti, non ti preoccupare. Anche se lavoravano, però li trattano bene. No, quello sicuro, no. Lo devi fare dopo, no, se no sono fatti due. Sì, sì, riga dritto, vedrai che ritorni intero con le tue gambe. Ah, non so, ma se li tratti bene, poco di buoni vermi. Guarda che c'è qualcuno in basso. Chi è avanti che vuole entrare? E chi è Anto? Boh, non ho capito io, lo sento basso, Robè, tu senti qualcuno? Sì, che l'ho sentito, avanti, no, l'ho distratto, stavo rispondendo a un messaggio, avanti chi vuole entrare? Scusate, il telefono. Mi sembra Carlo tu sei? Guarda, ti ascolto che stai parlando, sei Santiago 7 da me, però c'ho il QRM altissimo, non ho capito quello che, non so se sei Carlo o Mondino, conferma se mai riesci un po' a migliorare la voce, perché sei in mezzo al QRM, proprio segnale c'è ma radio zero, mi dispiace, sei Santiago 7, quanto c'ho il QRM adesso, se riesci a fare qualcosa non ti capisco quello che stai dicendo, non lo so se gli altri riescono a sentirti meglio, non so se tu Anto l'hai sentito. No, non riesco a sentirlo io, non c'ha radio, non ha radio proprio. Boh, quindi se sei tu non lo so, scusate ma Anto che sto rispondendo al telefono. Vai tranquillo, ma sei Mondino D'Alghero? Arrivi molto basso qua, non so se tu senti me, ma qua arrivi basso. Mondi, tu sei? Sei, ero distratto, ero al telefono. Non ti capisco, purtroppo, ripeto, sono se il QRM a 7 e tu sei in mezzo al QRM. Se riesci a fare qualcosa, magari, aspetta, prova a cambiare radio, vediamo se con l'altra riusciamo a tirarti fuori. Ma l'altro se sta uscendo? Cappa che sta uscendo. Allora, Mondi, tu sei? Prova a parlare se riesco a tirarti fuori con questa radio. Molto brutto tanto questa radio. No, va bene. Ma è più bassa dell'altro? L'altra è un altro pianeta. Vediamo se Mondino ha messo i filtri, vediamo se riesco a tirarlo fuori. Mondino, tu sei? Oh, non lo sento più adesso. Vabbè, ritorno con l'altra. Che radio è questa? È una sedia, la più grande dell'altra. L'altra la sento meglio io. Come mai? Vabbè, sei presente qua, c'è un altro microfono e altre regolazioni, non è fatta per andare qua. Ma comunque non è male. Vabbè, a te che risetto tutto quanto e me ne ritorno con l'altro, dai, con l'altro baracchino. Ciao, ma sai che sta andando meglio. Eccomi, ci siete ancora? Ci sono. Ehi, Roberto, c'è ancora? Stavo provando se sentivo, non so se era Mondino o chi, perché lo sentivo in mezzo al QRM, non capivo. Ho ricambiato radio adesso, sono ritornato al solito baracchino. Cosa volevo dire? Io sentivo parlare qualcuno che però proprio a livello di meno del QRM. Guarda, io c'ho il QRM 6 e lui era intorno a quella cifra lì, 6-7, mi sa del QRM, lui il segnale suo era 7, riusciva a scavalcarlo, però era basso di radio, non capivo quello che diceva, mi ha detto D'Alghero, ho capito, però non ho capito se era Carlo, in un primo momento mi sembrava Carlo o se era Mondino. No, io non riuscivo proprio a capire niente, zero. Ma in questa zona purtroppo il QRM è molto molto alto. Ieri sera che radio avevi ieri? Io? Sì, Robert. No, sempre questa sto utilizzando. Forse, no, l'altra non l'ho utilizzata, no. Su altre bande c'avevo l'altra radio. Perché ieri ho fatto l'ho acceso, ho visto che quando parlavi tendeva a scendere l'acqua dello Smith, tipo sottoalimentato. Sotto alimentato è possibile, perché c'ha un alimentatore, sì, mi sto facendo la prova, ce l'ho in diretta, c'ho il multimetro separato dall'alimentatore, e dice 51 volti ci sono, quello non se ne siede, manco lo muove, non lo so cosa sia successo ieri. No, avevo un'altra antenna, stavo usando un'altra antenna, quindi non so, ma era un problema di antenna, perché prima Claudio era a picchi positivi, invece tu, c'era uno dei Porto Torres, sempre Claudio, anche lui negativo, guidava. Qua sono positivi. No, oggi proprio l'ago non si muove, invece ieri scendeva, cioè tipo dal 9.30 scendeva verso il 9. Non lo so, io spero che non ci abbia avuto problemi io. Qua adesso sembra tutto ok, guardate anche per curiosità, perché oltre all'alimentatore che ce l'ho da un'altra parte, ci ho sempre messo sotto mano, ho messo un multimetro digitale da laboratorio, ma non scende neanche perché talmente lo sto sotto sfruttando, questo sta più di 60 ampere continui, non neanche lo siede, è proprio al minimo minimo, e la tensione non si abbassa neanche di un po' di luzzo. No, questo sì, perfetto, ripeto, probabile che fosse un problema di antenna, perché stavo provando un'altra antenna e adesso ho rimesso la vecchia, dai. Dai, vi saluto che mi stanno chiamando, quindi iniziamo a preparare qualcosa per il pranzo. Un abbraccio a tutti e due, ciao Antonio, ciao Roberto e alle prossimine, dai. E anche io tra qualche minuto vado via perché ne devo andare da un'altra parte. Ok, comunque già ho ben sentito, Franco, sempre un piacere, buon proseguo di giornata, se coincide ci sentiamo stasera. Ciao di nuovo, Brian tu. Ciao, sono dottore Franco, ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao. E beh, come sono andati i tortellini? E poi non ha giovato, mi pare 12 i tortellini, perché ci ha mangiati solo lei, io mi ho fatto a parte al forno scaldato. Però è uscito, già soci di more, no? Non è che vivo assai, un po' di acqua bollita, sale e poi al burro gliel'ho fatti scolati e sapo sul burro. Ah, ci vuole pazienza, se hai pazienza impari tutto. Tu mi puoi far vedere qualunque cosa, a me la cucina è una di quelle cose che proprio non mi attira neanche di dire esci, prenditi un libro e prova a fare una cagatina, niente, nulla. Posso fare qualunque cosa, anche danza classica, però del coso della cucina non me la frutti nuda, è una cosa che non mi dà nessuna soddisfazione, no. A mangiare sì, quello già non mi tiro indietro, però non mi dire a cucinare. Quando mi invitano tutti quanti dico sono il primo a andare, però non mi dire a cucinare. Prima o poi devi anche tu darti, devi pure tu imparare qualcosa, perché nessuno te ne può fare di mangiare, e come fa a mangiare? Sì, già si trova, c'era mia sorella, mi ha dato una mano, c'era i pasti pronti, amici, già marraggio, dai, già un posto da dove mangiare già lo trovo. Lo so, ma tu te sei fortunato, a me mi piatti, quando è già mi ci metto sotto e faccio un po' di roba da mangiare. Sì, no, avrei voluto imparare, ma sinceramente a parte c'ho poco tempo, non avrei neanche il tempo di mettermi a fare le cose, perché poche fesserie me le scaldo, ma niente di più. Non sono né Claudio né neanche quelli che qua che sanno cucinare, chi c'è? Qualche altro che metto che sa cucinare bene, io già mi arrangio bene. Ma Claudio lo fa con passione, si fa tutti i sughi, tutti i minestroni, le cose, sinceramente. A parte che l'odore della cucina a me non mi piace, è proprio una cosa che già ne prendo troppo in officina di odori, figurati a tenermi addosso l'odore del fritto, del bollito, eccetera, eccetera, o dell'arrosto. Sempre meglio di tenere un bianco piatto di pernice, Sicuramente, sì, no, ma dico, quando sento le arrostite, l'odore della carne arrosto, del pesce arrosto, mi piace l'odore, ma mal addosso, dentro casa che stai cucinando, la cosa più sensazione più brutta è il bollito. Quando si mettono a bollire le cose, infatti le volte la mia sorella dico mamma mia non entro in quella cucina, non c'entro quando cucina qualcosa di bollito. Vabbè, e cosa vuoi fare? Piano piano però bisogna... Vediamo se c'è qualcuno qua su 10 che vuole entrare. Non ho sentito la Claudio, ancora Drumiddu. Può essere. Oh, va bene, speriamo che la figlia non abbia fatto troppo tardi, anche se per certi versi è meglio. Se ha fatto tardi vuol dire che ha lavorato forte, perché doveva andare a prenderla, mi ha detto, perché c'era una nebbia ieri allucinante, non si è fidata, dice la figlia. Beh, se non si fida, non si fida. Ehi, ieri era vicidiana, ma è vista in tanti anni i Sassari all'una e mezzo dell'ora di pranzo con la nebbia così fitta, mai vista. La mattina sì, è capitato qualche mattina, io non la zona mia alta capita, ma all'una e mezzo del mattino, non del mattino, di pranzo, non esiste, cacca, perché il sole la fa diradare, la scioglie la brina. Ragazzi, che io l'avevo visto una volta che c'era nebbia, ma non così come ieri. E io, qualche ora, tutta mai è rimasta con bemmi. E è rimasta tutta la mattina, anzi ha migliorato, cioè ha peggiorato anziché migliorare. Già lo so già. E io. E poi me l'ha preso. Già lo so, quello dovevano salire le temperature, invece questa umidità te l'ha fatto percepire di più il freddo. Perché le temperature non erano basse, però c'era questa specie di nebbiolina che entrava nelle ossa. Cioè, c'era l'amico mio a Napoli, l'amico mio, mio cugino, non amico. C'era una settimana, ma lì erano nella via, diciamo tipo il Lido, dai, tipo Alghero, la camminata a lungomare, erano con quelle, sapete che ci sono anche ad Alghero, quelle biciclette a quattro posti che ti siedi, che pedali in due, tipo carrozze, erano tutti a maniche corte, in pantaloncini, altro di ma una giornata non di questiva, ma primaverile, c'erano più di 20 gradi. Si chiama il tandem. Tandem. Non il tandem, no, il tandem è quello che c'ha due sedili, io sto parlando tipo la carrozza, c'hai presente, che ci sono due posti davanti e due dietro. Ho capito. Che pedali? Il guidatore ce n'è uno che guida e gli altri due pedalano, tipo un pedalò, c'hai presente, però su ruote. Si chiama il tandem quello. No, il tandem è la bicicletta a due posti, che sono una bicicletta più lunga, c'ha due sellini. Quello, c'hai presente che un calesse, cacchio, quelli che ti portano con i cavalli. Si siedi così, ci sono due posti dietro e quelli di davanti pedalano e guidano. Telefono, scusami. Ehi, dai, che è pronto a mangiare, ci sentiamo. Ehi, arrivo qualcuno che sta.